Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Roberto Siagri, Eurotech e il cervello delle cose, di Alessandra Scaglione. In qualche maniera, come noi diciamo che facciamo un po' il cervello delle macchine, la parte, come dire, un corpo poi può essere diverso, però ogni corpo, anche noi umani tutti abbiamo un cervello, e anche se poi uno fa l'attore anziché fare il calciatore, anziché fare lo scrittore, il giornalista o lo scienziato, ecco, poi l'apparenza esterna è diversa, all'interno c'è sempre qualche cosa che è un calcolatore. Roberto Siagri, classe 1960, è presidente ed amministratore delegato di Eurotech, azienda del Nord-Est che lavora sull'innovazione e che in meno di 20 anni di vita è passata da 0 a 100 milioni di euro di fatturato. È presente in 3 continenti ed ha tra i suoi clienti, tra gli altri, il Dipartimento della Difesa americano. L'idea di innovare nel mondo dei calcolatori, Roberto Siagri l'aveva sin dagli anni dell'università. Nasce nel 92. In realtà l'idea di fare impresa ce l'avevo da subito dopo l'università, perché durante gli ultimi anni di università mi capitò di imbattermi nei calcolatori. In realtà mi imbattei nei calcolatori perché mi interessava la radioastronomia, e non capendo niente però della parte radio, alla fine però questi dati da qualche parte finivano e cominciavano ad essere, erano gli inizi in cui, al posto di essere dei registratori analogici col pennino, cominciavano questi dati a essere catturati da dei calcolatori, memorizzati e visualizzati negli schermi. E forse nulla sarebbe cambiato se non fosse sopraggiunto un periodo di crisi. Se non arriva la crisi del 92, non ci saremmo fatti altre domande. Ormai io ero dirigente, gli altri erano dei quadri, per cui gestivamo con molta autonomia tutta la parte di ricerca e sviluppo. Però la crisi, le crisi ti fanno sì, perché siccome ti fermano, ti fanno anche riflettere, ti fermi e ti metti a pensare, ti metti a pensare al futuro. E lì la mia domanda è: ma perché devo dipendere, il mio futuro deve dipendere dagli altri? Quando le cose vanno bene sei trascinato dalla corrente, per cui non ti sembra di dover preoccuparti di dove vai, perché intanto sei dentro la corrente. La crisi è un po' uno sbarramento. E a questo punto la domanda era: ma perché non lo facciamo noi? Perché non ci determiniamo noi il nostro futuro? Così in 5 escono dall'azienda in cui erano dipendenti e fondano Eurotech. È il 1992. La sede è un vecchio capannone del nord-est industriale vicino a Udine. Da zero e convinti, tra l'altro, che in pochi mesi si andava a break even. Cosa vuoi che facciamo due cose qui? Ci abbiamo messo 5 anni, ma 5 anni di lacrime e sangue, ma diciamo pane e acqua, o pane e latte. Però poi le cose sono venute fuori. E le innovazioni purtroppo richiedono un certo tempo di incubazione o di prima di poter poi dare dei risultati effettivi sul mercato. L'idea è nuova, anzi nuovissima, e riguarda il mondo dell'informatica e dei computer. Facevamo questa idea, questi calcolatori miniaturizzati, perché l'idea che avevo era, che poi era nata già durante gli anni di università, era che se si riusciva a ridurre le dimensioni di un personal computer da ufficio a dimensioni compatibili per essere utilizzato dentro un autobus, dentro un treno, dentro un aereo, dentro un in ambienti non familiari per un personal computer d'ufficio, forse si poteva cambiare il modo di fare le cose. Ora questa è una cosa quasi scontata, nessuno sembra una banalità. Se in prospettiva storica, se ne va indietro di 20 anni, non era proprio una banalità. Se l'idea è tutta di Eurotech, anche il rischio lo è. Per finanziare l'innovazione, dice Siagri, bisogna capirla e crederci. Allora, nella parte iniziale c'è poco da fare. Molti giovani, quando hanno anche vado in giro nelle startup o in questi tipi di competizioni, ma anche in varie presentazioni in cui si presentano innovazioni, molti poi magari si arrabbiano perché non trovano fondi, perché la loro idea dovrebbe essere finanziata. Ma non l'abbiamo inventato noi in Italia l'FFF, Friends, Family and Fool. All'inizio non c'è nessuna parte del pianeta che nessuno è disposto a finanziarti. Se non investi tu, se non rischi tu, se non rischiano i tuoi familiari, se non rischiano gli amici e i pazzi, non c'è speranza. Per cui all'inizio ci siamo autofinanziati. Dopo i primi anni, in realtà, abbiamo avuto dei contributi anche da parte della finanziaria regionale. però anche loro dicevano vi diamo un aiuto quando ci fate vedere che il prodotto esiste, quando il prodotto è commercializzabile, allora poi vi diamo anche una mano. Per cui la parte iniziale bisogna che tutti ci rendiamo conto che solo tu che sai può investire, solo qualche pazzo può investire e qualcuno che ti è caro, per cui familiari. D'altra parte non si chiamerebbe innovazione, cioè se è un'innovazione vuol dire che gli altri non l'hanno capita, gli altri non hanno capito di cosa stiamo parlando. Beh, se avessero capito di cosa stiamo parlando l'avrebbero già fatta loro. Poi la crescita inizia, prosegue e si concretizza. I clienti si moltiplicano, Eurotech si fa conoscere anche all'estero. Una delle prime commesse importanti arriva dagli Stati Uniti. È stata l'automazione di tutto il parco di Disney World in Florida tramite un'azienda italiana, qui di Milano, che usava una tecnologia che non era quella del personal computer. E perché fornivamo anche altri clienti, credo che un'azienda del gruppo Olivetti, li incontrammo e gli spiegammo che forse con questo sistema non potevano risparmiare tanti viaggi, non avrebbero più dovuto fare la manutenzione come la facevano allora, e loro rimasero entusiasti dell'idea. E io rimasi sconvolto del fatto che rimasero entusiasti dell'idea, perché... Speriamo che non vengano a trovarci, perché se vengono a trovarci non ci danno più l'ordine, perché noi eravamo quasi in cantina, insomma. E andò bene, poi abbiamo lavorato per molti anni con loro, abbiamo fatto parecchi parchi, perché l'idea di base del personal computer era che era facilmente connettibile a una rete, si poteva facilmente scrivere il software. Il software si poteva aggiornare da lontano senza... perché tornando indietro di 20 anni non c'erano le memory card, non c'è, parlare di cos'era il computer 20 anni fa, che comunque erano già molto meglio di 40 anni fa, è facile trovare tanti punti su cui agire adesso. Allora c'erano pochi punti ma importanti, e alla fine era sempre nel concetto di ridurre i costi di utilizzo dei calcolatori. Con il 2000 l'azienda è avviata, fa prodotti interessanti, fa reddito per i dipendenti e per gli imprenditori. Il fenomeno di esplosione è legato al fatto che prima hai 5 clienti, poi questi 5 te ne portano altri 20, poi da 20 diventano 100, e per cui quando cominci ad avere con gli anni una base di clienti importante, poi anche se non sono enormi, per una piccola e media impresa sono già più che sufficienti. Per cui intorno al 99-2000 cominciavamo già a pagarci degli stipendi, non solo agli dipendenti, ma riuscivamo a prenderci dei soldi anche noi, che era grande successo, no? Perché finalmente riusciamo anche a tirare fuori dei soldi noi. Per cui per noi la missione era compiuta a quel punto, perché a noi stessi avevamo dimostrato che eravamo riusciti a mettere in piedi un'impresa, non solo a pagare le persone che ci lavoravano, ma riuscivamo anche a tirarci fuori dei soldi. Per cui a questo punto diciamo che la fase 1, come dire, le elementari le avevamo fatte, ci avevano dato il diploma. Siagri inizia a chiedersi quale può essere il passaggio successivo, tenendo anche conto del quadro internazionale e dell'attenzione che i prodotti di Eurotech stanno riscuotendo. Eravamo arrivati circa nel 2000, c'era una grossa pressione competitiva soprattutto dalla Germania, perché la Germania come paese ha sempre creduto nel digitale, nelle tecnologie digitali, e aveva investito pesantemente nelle imprese di quel paese. E noi ci trovavamo della tecnologia tedesca a costi anche più bassi di quella italiana, e che poi diventarono nostri clienti questi signori che lavoravano nel settore ferroviario. Andai lì a presentarmi con questo mio piccolo computer miniaturizzato, il primo prodotto che avevamo fatto. Questo signore si mise a ridere, chiamò il suo partner e disse: vieni a vedere cosa fanno gli italiani. E dice: ma dove l'avete comprato? No, lo facciamo noi. No, non è possibile, in Italia non si possono fare queste cose. In realtà che stavamo facendo delle cose interessanti, ce ne siamo accorti prima ancora del punto di pareggio, già intorno al 94-95, quando avevamo molta attenzione della stampa americana di settore sui nostri prodotti, e addirittura eravamo riusciti a licenziare in America i nostri prodotti, e la cosa mi sembrava paradossale. Compravamo dei componenti che arrivavano dagli Stati Uniti, li mettevamo insieme qua e riuscivamo a riportarli di là. Ma allora qualche innovazione l'abbiamo fatta. E che per me sembrava magico che un signore degli Stati Uniti prendesse un volo, un aereo, per venire in mezzo alle montagne friulane a vedere cosa facevamo noi. E allora lì capì che stavamo facendo qualcosa di importante. La decisione è quella di espandersi con l'aiuto di un fondo di investimento, e inizia la seconda fase di crescita dell'azienda, quella internazionale. Nel 2000 Eurotech crea una filiale commerciale negli Stati Uniti. E poi inizia un percorso di acquisizioni in Italia e dall'estero. Ancora Stati Uniti, Francia, Finlandia e Inghilterra. Negli ultimi anni le frontiere si spostano ad Oriente, con l'acquisizione, completata di recente, di un gruppo giapponese. Nel 2005, intanto, arriva la quotazione in borsa. Siamo andati a quotarci, ci siamo quotati, abbiamo trovato un momento favorevole di mercato, devo dire, e avevamo anche raggiunto delle dimensioni giuste per andare, per cui avevamo, sì, continuando la crescita, visto che noi non eravamo proprio nel settore della cosiddetta new economy, eravamo nel settore dei calcolatori, della digitalizzazione, cioè di tutti quegli oggetti che servono per digitalizzare il mondo e che comunque andavano, magari non avevano questa, più che queste crescite, non c'era tutta questa euforia che c'era stata dietro la new economy, però aveva della sostanza. Siamo continuati a crescere, e poi abbiamo fatto la quotazione nel novembre del 2005 e poi abbiamo con quegli altri soldi raccolti poi siamo arrivati fino ad oggi, insomma. Oggi Eurotech ha un fatturato vicino ai 100 milioni di euro e 480 dipendenti distribuiti tra Europa, Asia ed America. L'area più importante in termini di fatturato sono proprio gli Stati Uniti, 45%, seguiti dall'area asiatica, 30%, e dall'Europa, 25%, con centri di ricerca specializzati nei diversi continenti e due divisioni di business. Sono il settore dei trasporti, i trasporti intelligenti, il settore della difesa, il settore del medicale, e poi c'è un settore che per noi è più importante di tutti dal punto di vista dimensionale, che è quello che chiamiamo industriale, che però lì c'è varia da paese a paese. In alcuni paesi riguarda macchine molto complesse che possono andare nel manufatturiero, in altri paesi magari può essere il ticketing, la macchina che distribuisce i biglietti anziché una macchina che serve a distribuire delle bevande, voglio dire, mentre in altri si arriva fino a delle macchine che controllano i processi di produzione dell'industria dei semiconduttori. Tanto per fare qualche esempio, due dei più recenti accordi stretti da Eurotech riguardano la gestione computerizzata del traffico ferroviario, con l'americana Meteorcom per un programma che aumenta la sicurezza e una collaborazione con Mondialpol per il controllo del trasporto valori in cloud computing. Rispetto al 1992, la crescita è esponenziale. Intanto, l'assetto della proprietà è cambiato. Ma no, diciamo che ormai ci siamo una public company, in realtà. Noi rispetto a tante altre aziende siamo effettivamente una public company perché più dell'80% delle azioni sono in mano agli azionisti. Poi sì, c'è una mia componente del 7%. Poi all'interno della nostra società abbiamo anche una partecipazione importante di Finmeccanica che è all'11%. E poi ci sono qualche altro fondo che ha delle quote intorno tra l'1 e il 2-3%. E poi il resto è tutto quanto flottante. Ma le prospettive per Roberto Siagri sono ancora di crescita. Inizialmente, perlomeno le parlo come ci si evolve come persona. Inizialmente parte perché vuole far vedere che quell'idea di prodotto è un'idea vincente, o perlomeno che può portare dei risultati. Poi fatto questo uno comincia a pensare, ma perché non si può far diventare 10 volte più grande questa società qui? E allora magari dal primo milione dici, ma perché non ne facciamo diventare da 10? E poi quando arrivi a 10 dici, ma perché non possiamo farne 100? Era chiaro che però quando fai questo passaggio cambi il punto di tuo interesse. Il tuo interesse diventa sempre di più spinto all'innovazione che non al prodotto, che non all'invenzione. Si parte un po' tutti inventori, ma poi se si vuole crescere bisogna diventare innovatori. Quando parlo di innovatori parlo che devi pensare di più all'aspetto socio-economico, cioè come entra nel mondo la tua idea, come cambia il mondo la tua idea. E a questo punto passi a innamorarti dei modelli di business, come si può sviluppare un modello che scala. Allora adesso noi quello che mi chiedo ogni giorno io, qual è il prodotto che mi permette di scalare, di far sì che da 100 faccio 1000? Per cui sì, per me ha senso questo, non tanto il nuovo prodotto in sé. Il prodotto deve permettermi di poter fare un salto, per cui mi serve qualche cosa che mi permette, se da 1 ho fatto 10, da 10 ho fatto 100, come si fa da 100 a fare 1000? Poi magari non ce la si farà mai, poi magari si ferma a 100, o si ferma a 200, a 500. Però è evidente che per me la sfida è la crescita. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.